get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita da 9700 di Radio Onda Rossa. No, non vi siete sbagliate. Oggi ve la facciamo ascoltare tutta. Questa è la nostra sigla. Perché benvenute alla nostra replica in diretta della centesima trasmissione. Wow! Oggi vi terremo compagnia Lucilla, Caterina, Claudia, Annalisa, Caterina, Pina, Rosina, Claudia. Ok, e quindi ascoltateci bene perché la replica va come deve andare, ma sempre con noi in diretta. Put a hurt on me. I said, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hey, hey, yeah. Oh, it must be love. You know it, oh, you know it walks like love. Allora, oggi siamo tutte qui per festeggiare e vi abbiamo anche preparato una sorpresa. Infatti, più tardi sentiremo al telefono Deborah, che è una delle fondatrici di questo progetto e che anche da Milano continua a mandarci le sue splendide collaborazioni. E oggi più che mai speriamo che siate in tante ad ascoltarci e che se vi va ci telefoniate qui alla radio allo 06 49 17 50 o ci facciate dei trillini facendoci capire che se vi piacciono i brani che ognuna di noi ha scelto per voi, se vi piace la trasmissione o se magari vi piaciamo anche noi. Ok, quindi sentite, vi siete godute la nostra sigla che spesso ci richiedete e quindi continuiamo a parlare, potete chiamarci tutti i mercoledì, questo non l'ha ancora detto Annalisa, e quindi potete chiamarci tutti i mercoledì in redazione dalle ore 21 allo 06 68 64 201, oppure potete inviarci una email all'indirizzo contatti@clrbp.it, oppure se amate ancora carta e penna potete scriverci al CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Al numero 06 68 64 201 potete anche inviarci un fax oppure lasciarci un messaggio in segreteria telefonica. Insomma, fate come vi pare, ma collaborate. E con noi oggi c'è una new entry e ve la presentiamo, è Tania. Ciao a tutte, sono Tania e sono l'ultima arrivata e approfittiamo di questa centesima puntata per conoscere meglio il CLR, il coordinamento lesbiche romane. Anch'io le conosco poco e visto che ne abbiamo la possibilità è sempre meglio indagare. Rosina. Presente. Da dove viene il titolo e come e quando è nata l'idea di fare una trasmissione alla radio? Allora, che bella domanda che mi hai fatto. Dunque, del nostro titolo abbiamo parlato spesso, a tuo uso e consumo, lo diciamo un'altra volta. È un titolo tratto da un bellissimo film, un film anche piuttosto datato, che si chiama L'assassinio di Sister George. E praticamente all'interno di questa storia una delle protagoniste a un certo momento, rivolgendosi al protagonista principale, cioè a Sister George, dice: non saranno mica tutte lesbiche arrabbiate come te. E Sister George, imperturbabile, risponde: è una calamità di cui mi rendo perfettamente conto. Ebbene, anche noi ci rendiamo perfettamente conto che non tutte sono lesbiche arrabbiate come noi. E speriamo che si arrabbino, non lo so, va bene. Dunque, per quanto riguarda invece il progetto, è un progetto che è nato diversi anni fa, direi subito dopo l'ultimo grande convegno delle realtà lesbiche, che si chiamava appunto Il Mondo da Fare, poi non si è fatto il mondo ovviamente, è un convegno che si tenne a Roma presso il Buon Pastore. E paradossalmente quindi questo progetto nasce da un momento di grossa difficoltà del coordinamento, un momento di forte discussione e anche di rottura interna, in cui abbiamo dovuto rivedere una serie di cose che riguardavano il gruppo e in qualche modo quindi anche il nostro modo di fare e di intendere la progettualità e l'azione politica. E fra le varie possibilità ci è sembrato che la soluzione più fattibile fosse proprio agire all'interno di uno spazio radiofonico che però presentasse una serie di caratteristiche che consentissero la salvaguardia di alcuni principi che noi ritenevamo e continuiamo a ritenere essenziali per il nostro lavoro, primi fra tutti naturalmente il separatismo e l'autogestione. E quindi l'occasione di andare in onda ci è stata fornita dalle compagne del Martedì Femminista Autogestito, che all'epoca già da un paio d'anni lavoravano all'interno di Radio Onda Rossa. E così il 2 dicembre del 1997, un secolo fa, oserei dire, se mi passi la battuta, è cominciata la nostra avventura e da allora continuiamo a tediare le nostre gentili ascoltatrici con una cadenza settimanale, toccando una serie di temi che vanno dai principali avvenimenti politici alle recensioni dei libri, i film, la musica lesbica, insomma tutti quegli argomenti che in qualche misura interessano ed investono la comunità lesbica. E che altro dire, abbiamo anche effettuato per un certo periodo una collaborazione con Radio Sherwood, che era una radio autogestita di Padova, perché il nostro progetto prevedeva appunto la circolazione sul territorio del nostro lavoro, proprio per perseguire uno degli obiettivi fondamentali del coordinamento, e cioè il collegamento con le altre realtà lesbiche italiane e non solo. Speriamo di averti risposto. Oh, adesso che brano hai scelto per noi, per le nostre ascoltatrici? E questo io l'ho scelto per me innanzitutto, perché sono molto simpatica e prepotente, e a te assolutamente te ne dedicherò un altro più tardi. E il brano si chiama You Got It ed è della cantante Bonnie Raitt. One look from you, I drift. Lucilla, il CLR è un gruppo lesbico separatista. Vuoi dirci due parole sul separatismo? Anche se immagino l'argomento ne richiederebbe molto di più. Ok, è difficile parlare di separatismo. Ancora oggi si pensa alla forma della politica separatista come quella degli anni 70 e degli anni 80, cioè quella dei gruppi di autocoscienza e delle manifestazioni di piazza. Almeno è quello che io percepisco talvolta dalle donne che mi dicono ancora separatista, intendendo praticamente qualcosa, non so, di vecchio, di superato, di sorpassato. Allora, nella realtà noi oggi preferiamo e riteniamo più giusto parlare di separatismi, cioè di varie forme della pratica politica di singole e di gruppi che si esprimono in modi diversi a seconda dei propri progetti oppure delle realtà in cui operano. Allora, noi crediamo nella forza del cambiamento culturale e nella possibilità quindi di fare una cultura di tipo alternativo, cioè proporre un altro punto di vista sul mondo e sull'organizzazione sociale. Allora, noi non crediamo che esista una naturalità degli eventi, ma che il potere si esprima per postulati e per regole fisse attraverso una cultura che tutto è tranne che neutra. Allora, un esempio per tutti è che l'eterosessualità viene fatta passare come un'unica possibilità di espressione in quanto è naturale ed è biologica. Noi abbiamo una diversa opinione, crediamo che l'eterosessualità, in quanto obbligatoria, non sia una scelta e per questo riteniamo di essere portatrici di una cultura alternativa a quella dominante e per questo abbiamo scelto di operare nell'ambito di un mezzo di comunicazione come la radio, per portare una voce diversa e una visione alternativa sul mondo. Per questo abbiamo scelto Radio Onda Rossa e il martedì femminista autogestito. Noi abbiamo scelto praticamente di contaminarci, nel senso più positivo del termine, entrando in contatto diretto con una situazione che ha un grande spessore culturale secondo noi. E questo perché? Perché è antagonista e che è proprio l'antagonismo che ci consente di dire che c'è un'alternatività, c'è un essere alternativi praticamente, e accetta proprio questa realtà a sua volta di incontrarsi con altre realtà, per esempio come quella nostra, e quindi di contaminarsi a sua volta. Lo spazio nel quale ci muoviamo è quindi uno spazio libero. Noi gestiamo direttamente, senza censure né supervisione, la nostra trasmissione. In più, stando all'interno del martedì femminista autogestito, abbiamo la fortuna di confrontarci e di collaborare con altre donne, altre femministe, che come noi hanno scelto di fare un percorso separatista all'interno di Radio Onda Rossa. Essere quindi separatiste, nel nostro caso, significa mettere insieme energie, pensieri e desideri e di farli agire per reinterpretare il mondo, per creare una visione collettiva diversa da quella data, organizzandoci in uno spazio privilegiato, che è quello delle donne. E se ti va, io, Tania, mi vuoi fare un'altra domanda? Per esempio, su quale pezzo mando? Vai. Per fare e vai, fammela. Che pezzo ci farai sentire? Beh, vi faccio sentire, cioè voglio un pezzo che noi abbiamo fatto sentire tantissimo e sarà pure sfruttato, ma per me è eccezionale. È delle Kick la Luna, che è un gruppo di lesbiche che fanno musica lesbica indipendente, e il pezzo si chiama No Compromise, non compromessi. I'll see. insomma, ce li volete fare i trillini? Oggi siamo tutte qui, siamo tantissime apposta per voi. Che diamine, fatevi sentire, no? Caterina, ma perché insisti? È probabile che questo tipo di musica non piaccia. Guardate che va lanciata una sfida, io direi di contraddirla in diretta, mandatene tanti come al solito perché sappiamo che ci siete. Ti credo che non piace la scelta Lucilla, ovviamente non poteva essere diversamente. Stiamo facendo un po' di casino, eh? Va bene. Piacere a Lucilla o perché vi piace veramente la musica? No, perché poi quando arriverà la nostra vorremmo sentirne tanti quanti, se non di più, eh? Dal titolo Donne e Storia. Vuoi spiegarci perché la fai e che significato ha? Sì, volentieri, se finisco di litigare con il computer e tutto il resto, bene. Dunque, allora io ho deciso di fare questa rubrica che si chiama Donne e Storia quasi per caso, perché sinceramente avevo deciso di fare qualcosa che fosse accanto alle donne. Sinceramente non avevo idea di quante donne fossero state private della loro giusta collocazione all'interno delle ricostruzioni storiche relative all'arte, alla scienza, allo sport, ma anche alla politica e alla storia vera e propria. Voglio dire, cioè, che avevo sicuramente coscienza che per le donne non è stato mai semplice arrivare nella cosiddetta stanza dei bottoni. Non lo è ancora oggi, figuriamoci nel passato, ma non avevo la netta percezione di quanto le donne fossero state penalizzate dal non poter essere determinanti, quanto questa volontà di scavalcare le donne abbia contribuito a cancellare quasi totalmente tutto quanto le donne stesse abbiano mai fatto, quanto il non considerare possibile un contributo femminile abbia sostanzialmente usurpato alle donne quei meriti e quei riconoscimenti che invece spettavano loro di diritto. senza contare che poi anche tutti i possibili benefici legati alle scoperte fatte dalle donne avrebbero potuto aiutare tutti. Non so, sto pensando per esempio a Trotula. Trotula era una donna medico in un'epoca in cui alle donne era vietato non soltanto curare ma addirittura toccare un uomo. Che so, le dame di Salerno che impiantarono la prima università medica e che furono costrette a chiudere perché all'epoca le donne venivano accusate di stregoneria e bruciate vive, per esempio, no? Allora, tutte queste donne, per nostra fortuna, sono riuscite in un modo o nell'altro a farci arrivare notizie di sé. C'è da dire che la trasmissione di questi saperi è avvenuta prevalentemente attraverso canali femminili, vale a dire grazie ad altre donne. Donne ricercatrici, storiche, archeologhe, le quali hanno ridato valore e credito a tutte quelle donne abbandonate nelle pieghe dei libri di storia. Nelle pieghe perché certo non potevano proprio cancellarle del tutto, ma porle in un secondo piano sì. Allora, io certo non ho la presunzione di considerarmi alla stregua di coloro che hanno la capacità di riportare a galla quanto finora mantenuto sommerso. Diciamo che svolgo una minima azione, quella di portavoce o se preferite di messaggera. E trovo importante soprattutto parlare delle lesbiche del passato che hanno svolto ho inventato, ho fatto qualcosa di significativo, perché ritengo che loro abbiano subito una doppia censura, quella dedicata alle donne e quella aggravante riservata alle lesbiche. Allora, da quando abbiamo iniziato questa nostra esperienza radiofonica che curo questa rubrica e confesso che queste eroine le sento vicino a me, la cosa significativa è che quasi tutte queste donne hanno fatto quello che hanno fatto senza pensare di fare qualcosa di eroico. È diventato importante proprio perché ognuna di loro ha agito rimanendo se stessa, facendo ciò che riteneva giusto, seguendo i propri sogni, le proprie aspirazioni, i propri bisogni. È questa la cosa eccezionale. Ed è proprio questo il messaggio che voglio mandare. Ognuna di noi fa qualcosa di importante e non è necessario che sia per forza eccezionale, imponente o grandioso. È comunque rilevante per il semplice fatto che noi lo realizziamo assecondando un sogno, un credo, un'idea, uno stato, una convinzione. Questo è importante. Benissimo, Caterina. E che brano ci farai sentire? Ma io ormai lo sapete, amo tantissimo Melissa Etheridge e manderò un suo brano dal titolo Unusual Kiss. Chi mi conosce sa che io non so l'inglese, per cui abbiate bontà, ascoltate la canzone che è bellissima, mandate tanti trillini, tanti. Seen that look somewhere before. 1:25 a.m. I thought that you were headed for the door. Then something touched my skin. I won't ask you to leave here anymore. Was it the talk or the drink or the dance that led to this? And it's such an unusual some Ci vuoi parlare della struttura delle trasmissioni e di quali temi affrontate? Sicuramente, sicuramente, perché i temi che affrontiamo ci sono molto cari, anche se sono sempre, anche se sono limitati tutto sommato rispetto proprio a quello che ci piacerebbe affrontare. Purtroppo però il poco tempo a disposizione, le vite strozzate che conduciamo ci portano a questo tipo di scelta. Cerchiamo comunque anche di divertirci. Infatti nell'arco del mese dedichiamo un martedì alla recensione di film, di libri e avvenimenti che ci colpiscono, mandiamo in onda musica lesbica indipendente, parliamo anche di cucina, di appuntamenti, purché riguardino però le lesbiche o più in generale le donne. Mettiamo a conoscenza, insomma, di chi ci ascolta tutto quanto il movimento lesbico e femminista mette in campo. E non parliamo soltanto di casa nostra. Spesso abbiamo reso contatto e comunicato di iniziative internazionali, replicando poi la stessa trasmissione il martedì successivo. Invece l'altra quindicina è dedicata, insomma, a dire la nostra da un punto di vista strettamente lesbico e su argomenti che ci appassionano. E siccome sono tanti, la redazione sceglie di volta in volta il tema. Questo fa sì che spesso riusciamo a condurre una trasmissione monotematica e che questo ci permette, e badate bene, non utilizzo il termine ci consente, ritenendolo ormai un vocabolo inflazionato. Dicevo quindi che questo ci permette di meglio approfondire la questione, chiaramente senza mediazioni, senza condizionamenti, cercando di ribaltare le cognizioni che questo tipo di cultura vorrebbe venissero introiettate come una sorta di comandamenti, cercando di mantenere un occhio critico sul mondo. Un mondo che, come abbiamo più volte sottolineato, è sempre più globalizzato, e lo dico nell'accezione più negativa del termine, un mondo sempre meno attento, sempre più involuto, sempre meno rispettoso della diversità in generale e più in particolare delle lesbiche, per giunta separatiste, che continua ad ignorare la condizione femminile nonostante tutte le varie commissioni sulle pari opportunità. Un mondo, inutile a dirlo, pensato dai maschi e per i maschi, fatto soprattutto di sopraffazioni e violenze, nel quale non ci riconosciamo e dal quale ci piacerebbe prendere le distanze. Ma siccome siamo lesbiche e donne, non smetteremo mai di sperare in un mondo migliore. E questo è il nostro sogno, ed è per questo che non smetteremo di dire la nostra finché sarà possibile. Comunque, in ogni caso, nelle nostre trasmissioni a tema abbiamo parlato di alcolismo, di cibi modificati geneticamente, della mucca pazza, del terrorismo, della situazione in Afghanistan, della politica italiana, insomma i temi sono stati tanti e tutti a noi cari. Grazie Pina. E ora cosa ci farai ascoltare? Vediamo se riesco a dirlo bene. Io vi farò ascoltare, ho scelto un brano di Annie Lennox che si chiama Sweet Dreams. Scusate la pronuncia, come al solito lo sapete, il mio inglese non è perfetto perché. Comunque mandate tanti trillini, spero che vi piaccia questo. Vai Caterina, vai. Thank you. io sento solo la musica. Lo sento voi? No. Parla tu. Ecco, Deborah. Pronto? Aspetta perché altrimenti stai andando in onda. In linea stiamo cercando di metterci in contatto con la sorpresa della serata e ci dovrebbe quindi essere Deborah da Milano. Deborah, ci sei? Ci sono, mi sembra di essere chiamato sorpresa. Hanno sono. Sentito tutto il tuo fischio. Ci sono. Invece per te ho riservato un'altra domanda. Oh. E, quindi con che criterio scegliete la musica? Ma più che criterio, diciamo, come è possibile immaginare, è difficilissimo trovare brani scritti o realizzati da lesbiche, che poi era... Diffondere la musica lesbica indipendente era uno dei motivi che ci ha spinto proprio al progetto della trasmissione radio. È difficile trovare questi brani perché, in primo luogo perché proprio la musica indipendente è sempre più attanagliata dalle grandi produzioni. Poi perché, insomma, non è che sulle copertine noi troviamo scritte le scelte sessuali delle artiste o delle autrici o delle musiciste. Quindi, tra l'altro, noi pensiamo che la visibilità individuale delle lesbiche vada rispettata e quindi prima di inserire un brano nella nostra rubrica di musica lesbica indipendente vogliamo essere certi, insomma, che l'artista sia lesbica e voglia dichiararsi tale. Quindi, a parte i gruppi che sono poi diventati storici per la nostra trasmissione, come Le Chicche alla Luna, loro ad esempio delle Chicche alla Luna è stato Dark Street, è stato il primo brano con il quale abbiamo iniziato nel 97 la rubrica. Poi ci sono Castelberri Dupré, Le Bella Donna CH, a parte questi gruppi, diciamo, storici, è complicato trovare brani di musica lesbica indipendente. Dunque, all'inizio abbiamo avuto una buona collaborazione con Tikala, che è una distribuzione indipendente tedesca, ordinavamo i CD via posta, ma poi anche loro hanno esaurito il loro repertorio, quindi niente, più che altro è complicato trovarle. Artiste come, che ne so, Eni Di Franco o Cassia Heller, poverina che è morta, o l'Indigo Girls, nel 97 erano artiste indipendenti, adesso sono un po' meno perché gioco forza e forse per fortuna sono entrate nel giro della media e grande distribuzione, quindi più che altro, più che una scelta, è una continua ricerca di musica lesbica indipendente. Pronto, ma ci siete? Parlo sì, sì, ci siamo. Pronto. E allora, invece il tuo brano l'abbiamo scelto noi e abbiamo scelto delle Indigo Girls, Power of Two, e te lo dedichiamo. Grazie. Ciao Deborah, sono Lucilla, vai forte. Ciao, in bocca al lupo. Grazie, ciao. Allora Claudia, so che anche tu sei entrata da poco, e questo gruppo come le conosciute? Allora, praticamente circa un anno e mezzo fa io ero tornata a Roma da poco perché ero stata lontana per lavoro. Ho sentito a Radio Onda Rossa una loro trasmissione e mi sono sintonizzata la settimana dopo e c'era proprio una trasmissione monotematica sul lavoro minorile che mi ha molto interessato, e siccome in quel periodo io avevo un tema da proporre che era quello dell'alcolismo, le ho contattate, loro ci siamo visti il mercoledì successivo, sono state carinissime, abbiamo trovato subito, diciamo, una sintonia sia culturale che politica, che di analisi delle situazioni, per cui dopo un anno eccomi qua. E c'è da dire che riguardo la mia esperienza con loro è stata molto positiva, e tra l'altro io c'ho sempre l'idea, insomma, che insieme possiamo cambiare e ideare una nuova cultura, e è grazie a me che vi beccate le rogne sulla sacralità e tutti le tiritere sul potere. E a proposito di questo, io volevo fare delle domande al pubblico gentile che ci ascolta. Ma si capisce quello che diciamo? Vi serve a qualcosa? Vi interessa? Cioè, se è così, rispondete, scriveteci, telefonateci. Cioè, io posso capire che ci possono essere dei problemi, dei freni inibitori per schierarsi da una parte o dall'altra, però posso garantirvi che venire con noi non implica chissà quale cambiamento di modo di vivere o di rapporti interpersonali. È solo un momento per confrontarsi, scambiarsi opinioni, consigliarsi e cercare di ideare quella nuova cultura che bisogna creare per vivere libere e per iniziare un viaggio insieme. Autostrada di Gianna Nannini. Salve. Quali sono allora i vostri prossimi progetti? Quest'anno abbiamo grandi ambizioni, stiamo preparando una serie di iniziative a Via di San Francesco di Sales 1B e ve ne parleremo durante le prossime trasmissioni. ma vogliamo soprattutto a tutti i costi collaborare con le lesbiche, con le donne che stanno in ascolto e tutte quelle che ne avessero voglia sparse in tutta Italia. Per questo, oltre a invitarvi a chiamarci, sono graditi insomma i vostri commenti, i vostri scritti, qualunque cosa vi viene in mente, stiamo costruendo il sito web www.clrbp.it, la pagina iniziale c'è, prometto che nelle prossime settimane avrete anche qualche pagina in più. E lì il nostro progetto è quello di pubblicare tutti gli articoli scritti o parti di essi, tutte le opinioni espresse sulla realtà politica, sociale, lesbica, eccetera, eccetera, eccetera, sperando di avere un dialogo fittissimo con chi sta dall'altra parte del microfono e che ci segue con affetto, vero? Allora, io vi ricordo il nostro indirizzo, che è contatti@clrbp.it, e vi prego veramente di scriverci, anche soltanto se ascoltate la trasmissione, se vi piace, se non vi piace, chi vi piace di più di noi tutte, naturalmente Annalisa è la più votata, grazie, e anche se il nostro progetto proprio ambito rimane quello di portare la nostra trasmissione sulle frequenze di Radio Maria, in modo che sia diffusa in tutta Italia, autostrade, gallerie comprese, come ben sapete, e vi possiamo così anticipare tra l'altro che questa possibilità non è così remota, infatti già cominciano a scriverci in tante da qui vicino, da San Pietro, insomma. Oh. Per quanto riguarda invece il brano che ho scelto, perché me lo starai chiedendo, me lo stai per chiedere, vero Tania? Sono qui apposta, te lo chiedo. Ecco, allora, dal mio accento sicuramente avrete capito che io vengo da Brescia Sud, no, invece dalla show si capisce che io sono di Napoli, e volevo far ascoltare una delle canzoni che amo di più e che parla del mio amatissimo Sud, dal quale mi sono dovuta allontanare in maniera dolorosa per essere liberamente quella che sono, cioè lesbica, ma del quale mi sento e mi sentirò sempre parte indissolubile. La canzone si chiama Terra Mia. Io vi scongiuro di farmi Trillini, se no Pina mi massacra, che dice che scelgo sempre canzoni romantiche, insomma, che non piacciono. Invece voi fatemi capire che, vi prego, siatemi solidali, le dedico a tutte voi, a tutte le donne che ci sono in ascolto e che sono del Sud. Grazie. Chiaramente la solita pallosa, tanto per non cambiare. È bellissima questa canzone, vi prego. No. Mi ricordo il numero 06491750. Un caffè pagato pure. È inutile che insiste perché tanto, insomma, l'ho battuta come minimo 5-2 per il momento. 5-3, basta, ferme, 5-4, ferme. Storia che ci offende. Ma ci vuoi parlare anche, scusa Tania, visto che sei una nuova entry, ci vuoi dire qualcosa di te per la signora? No. Un momento, allora, per concludere, ordinatamente. Non ci vuole dire niente, la bella signora. Fate non ci vuole contente, dire niente. Le più curiose come me, e raccontateci anche qualcosa di più personale, non esiste che concludete così. Allora sono Lucilla, allora vi dirò innanzitutto segno zodiacale Ariete, il meglio che ci sia, e poi com'è stata la mia prima volta? Mi sono emozionata molto qui in radio la prima volta, mi sono emozionata molto e ho fatto tante papere. E Pina, la tua prima volta com'è stata? È stata con te Lucilla, te lo dimentichi? Oh wow! E di che segno zodiacale sei? Io del Cancro. Ok. Ma e Rosy, sapere, queste papere sono venute fuori perché avete utilizzato dei metodi anticoncezionali non opportuni, non si è capito bene. Petetra, di che segno sei? Io sono del segno del topo. Il segno del topo è nell'oroscopo cinese, è quello della nostra The Voice number 2, e cioè Rosina. Vediamo un po', Annalisa, di che segno zodiacale sei? Sono Cancro, quindi romantica, pesante, passionale, tutto quello che dicono di noi, no Pina? Oddio, è del mio stesso segno, ecco perché. Annalisa, com'è stata la tua prima volta? È stata molto bella, tanto tempo fa, e tale è rimasta, no? No, è stata bellissima veramente. Cioè la tua prima volta in radio è stata bellissima. Ah sì, quella sì, senz'altro. Tanto tempo fa. Tanto tempo fa, sì. Tu Alice, confessa che la tua prima volta in radio è stata con me quella vera, proprio bella. È vero, unica. Pina, ancora me la ricordo. Scusate, è The Voice number one? Vuole dirci qualcosa? Io sono timida. E di che segno zodiacale è la timidona? Ma è il migliore di tutti, i gemelli chiaramente, no? Gemelli, quindi voi parlate sempre con almeno due The Voice number certo, one. Io infatti li dico sempre al microfono e quello che devo dire, l'inglese che è la mia seconda lingua, che la parlo chiaramente. Ma anche la prima direi. Sì, la prima, la seconda, la terza, poi ho una predilezione per il tedesco perché insomma Marlene Dietrich è la mia sosia. È la tua sta zia. Sta copiando tutto quello che faccio purtroppo e vabbè, la devo tenere così, che devo fare? Ogni tanto mi sfugge, diventa famosa più di me, che devo fare? Boh, non lo so. E poi abbiamo alcune altre timidone vere, non come quelle che vi stanno parlando al microfono, che sono di altri segni zodiacali e che non ce li vogliono dire per ce ora. Ce n'è una in modo particolare che si sta sbracciando facendo dei movimenti che partono da destra verso sinistra, ma che vorrà dire? No, non lo so. Forse, non lo so. E che segno sei Claudia? Allora le anarchiche non hanno segno, alla faccia della cultura alternativa. Va bene, le anarchiche non solo sono senza patria, ma sono ovviamente senza segno zodiacale. Quindi Claudia, ci puoi però dire com'è stata la tua prima volta? E certo Lucy, è stata con te. Oh yeah! Ma allora io sarei una, va bene, non lo posso dire qui in radio perché c'è la, perché sono stata una farfallina mia. La mia farfallina. La mia prima volta con Claudia, la mia prima volta con Pina, non so con quale altra la mia prima volta. Io sono disposta a fare la prima volta con chiunque voglia, chiaramente, no, lo sapete. Noi tutte siamo disposte a farvi fare la vostra prima volta. Anzi, io lancerei questa proposta, ognuna di voi sceglie con chi fare la prima volta, dalla voce, dalla al voce. Buio. Al buio e poi si fa anche al controbuio, perché al controbuio la fate la vostra prima volta con Tania, la new entry. Io dico che il vostro rischio è pericolo. Io dico che adesso sentirete un rumore e io sono sicura che questo rumore che adesso partirà mi arriverà diritto in fronte. Io con la lo potreste riconoscere. Oh. Festeggiamo la nostra centesima. Allora ragazze, grazie di seguirci, no? Lo dobbiamo certo dire Lucilla, certo, senza dire di voi noi non potremmo essere qui. Non strillate perché io ho la cuffia e mi state trapanando i timpani. Oggi questa sta nevrotica proprio, pazza, mamma pazza, mia, nevrotica pazza, pazza. È il fascino della diretta, mi eccita. Allora, a proposito della diretta, del fascino, del tappo, dello spumante aperto, eccetera, noi vorremmo mandarvi ancora una volta, credo, la sigla iniziale. Intanto ve la sta facendo Pina. No. E questo prima di bere, pensate dopo. E quando facciamo le prime con le prime, siamo meglio delle seconde, veramente. Vado con la sigla che è meglio. Vi salutiamo tutte e a martedì prossimo. Allora vi salutiamo tutte in ordine? Sì. Sì. E quindi l'ordine chi è prima? Ma io. Ma che pare, vai. Ma che Annalisa. Claudia. Caterina. Pina. Lucilla. Hai sbagliato ordine, Lucilla. C'era Rosina ovviamente, ma che può fare? Ciao Tania. Aspettiamo vostro. E grazie per avermi fatto vincere la gara con Annalisa rispetto ai trillini, eh? Grazie, grazie ancora. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.